24 mattino. Caro Simone, per favore, basta, basta, basta parlare di Renzi. Non fate altro che fargli pubblicità, ma parlate dell'economia, delle crisi, di come sviluppare questo paese. Comincia tu, vedrai che qualcuno ti segue. Col senno di poi mi sa che anche i 5 Stelle si sono resi conto che il governo migliore che potevamo avere era quello con la Lega. Dovevano solo, come si può dire, modificare un po' i loro cavalli di battaglia e potevamo fare un grande passo in avanti. Io ho due bambini, una femmina e un maschio, e li rifarei anche domani, però una roba è vera, in questa società di oggi tutto rema contro il farti avere figli, dai sussidi al tempo, alle scuole, al lavoro, i posti di lavoro dove se sei genitore sei un problema, ti fanno sentire che sei un problema. Oh, mi piace la riflessione del nostro ascoltatore, l'ultima, adesso arriveremo a questo sondaggio realizzato dal Messaggero, che secondo me è destinato a far discutere, questo sondaggio SVG, secondo il quale un italiano su sei tra coloro che hanno figli non li rifarebbe. Che un po', se volete, lo specchio dei dati che vi abbiamo fornito la settimana scorsa sulla denatalità del nostro paese. Un grande tema, uno dei grandi temi dei quali la politica appunto si dovrebbe occupare, mentre al momento appare, come leggiamo anche dalle pagine dei giornali, presa da tutt'altro. È la seconda parte di 24 mattino, sono le 7:21 minuti e 35 secondi di questo mercoledì 19 febbraio ed è la parte dedicata alla rassegna stampa. Aspettiamo comunque sempre le vostre voci al 349-238-6666, via sms, whatsapp, whatsapp audio. Le aperture, Conte alla sfida con Renzi, titola il Corriere della Sera. Operazione salva Conte, la Repubblica, perché un gruppo di senatori lascia Forza Italia, a partire dall'ex ministro Romani che dice saremo interlocutori dell'esecutivo. Governo, Conte sfida Renzi, lo aspetto in Parlamento, è il titolo della Stampa. Pentola a pressione è il titolo del Manifesto. Ma anche molte aperture, molti titoli forti dedicati alla offerta pubblica di scambio di Intesa su UBI, di Intesa San Paolo su UBI. Superbanca d'Italia è il titolo del giornale, svolta nel credito, così il colosso Intesa UBI può scuotere il paese più del governo. Intesa UBI, un gigante europeo, è il titolo del quotidiano nazionale. Messina, con Intesa UBI nasce un campione europeo nei ricavi, è il titolo del Sole 24 Ore, che dedica anche ampio spazio all'IRPEF, l'altolà dell'INPS, con il taglio al cuneo difficile fare la riforma. La Verità e il Fatto Quotidiano si concentrano sulle questioni giudiziarie di Renzi, Renzi più guai penali che voti è il titolo del Fatto. Consip, altro che complotto contro Renzi, il GIP non hanno indagato sul gran capo, dice, titola La Verità. Avvenire si dedica al G20 dei vescovi di 20 paesi legati al Mediterraneo, che si svolgerà oggi a Bari. Libero, al fatto che regaliamo metano ad Albania e Grecia, ve l'abbiamo letto ieri in rassegna stampa, l'articolo che parlava della proroga dello stop alle trivellazioni, alle ricerche in mare, è esattamente di questo che si parla. Eh sì, la Gazzetta dello Sport, perché stasera gran serata per l'Atalanta che affronta il Valencia a San Siro. Bergamo a San Siro è il titolo della Gazzetta dello Sport. E c'è anche un titolo per Haaland, il nuovo fenomeno che incanta l'Europa con una doppietta. Il Borussia vince 2-1 col Paris Saint-Germain. E infine il Messaggero. Migranti, scudo per i ministri. Guardate che questo è un fronte interessante, perché nell'ipotesi di modifica dei decreti sicurezza, per evitare altri casi come quello di Salvini, il Premier risponderà degli atti del Viminale. E anche questo farà discutere, mi pare, se sarà veramente così come ovvio. Iniziamo come sempre però, come si diceva, da cose un po' laterali e da temi di dibattito, se volete. Il primo è sicuramente questo sondaggio SVG per il Messaggero, che devo dire mi ha colpito molto, perché insomma è un segnale, quantomeno. Poi di cosa sia effettivamente un segnale lascio a voi l'interpretazione. Sacrifici e poco tempo libero. Uno su sei non rifarebbe figli. È a pagina 11 del Messaggero. Il sondaggio SVG fa capire, racconta Diodato Pirone nel pezzo che accompagna i numeri appunto di questo sondaggio, fa riconoscere che l'intera generazione di mezzo, quella dei 25-44 anni, che in Italia, lo ha drammaticamente confermato l'altro giorno l'Istat, ha smesso di fare figli, insomma, ne soffre di tutto questo. La testimonianza è un po' anche nel film appena uscito, quello con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. Solo una ragione socio-economica, come si tende a pensare, è un paese per vecchi che non sostiene in alcun modo le giovani famiglie, anche ma non solo, come confermano appunto i dati di SVG. Il dato più eclatante è che il 15% di coloro che hanno figli non li rifarebbe, ma il bello è che questa percentuale, si fa per dire bello, sale al 22%, ovvero a quasi 1 su 4, nella fascia d'età fra i 25 e i 44 anni, ovvero fra coloro che i figli li dovrebbero sfornare sul serio. Non è corretto tuttavia descrivere gli italiani come gente insensibile al tema. Lo stesso studio ci racconta che il 67% degli intervistati, una larga maggioranza, pensa che senza un figlio la vita di una persona è incompleta. Anche su questo punto però coloro che si collocano in quella fascia di età, 25-44 anni, sono molto più tiepidi e scendono al 57%. Qual è la questione, poi, viene chiesto a queste persone, insomma, a cosa attribuiscano il calo demografico, no? Mancanza di servizi alla famiglia, difficile conciliare la vita lavorativa con quella familiare, fare un figlio, dicono alcuni, comporta troppi sacrifici a livello personale, una risposta secca. Altri ancora dicono che la propria rete familiare darebbe uno scarso supporto alla cura del bambino. Un altro 10% incredibilmente addossa la responsabilità della crisi demografica italiana alla maggiore indipendenza delle donne, che ne ha ridotto l'interesse a fare e seguire i figli. Dunque, questo sondaggio SVG sarà un sondaggio sul quale riflettere e sul quale discutere. Così come fa un po' discutere la decisione arrivata a Stintino, e siamo in provincia di Sassari, che riguarda la spiaggia della Pelosa. Occhio che è una delle più belle, forse la più bella spiaggia del Mediterraneo. La storia qual è? La storia è che alla spiaggia della Pelosa d'ora in poi entrano solo in pochi e per di più dovranno pagare. È il caso raccontato sulla stampa a pagina 15, che ci racconta appunto di questa perla bianca e azzurra del nord-ovest della Sardegna, che diventa la prima spiaggia pubblica a pagamento. Era già la più blindata d'Italia, ma ora i divieti si fanno ancora più rigidi. Che cosa succede? Ci sarà il numero chiuso, massimo 1500 persone, si pagherà non meno di 3,5 euro a persona, bambini esclusi, si entrerà con un braccialetto colorato e biodegradabile che sarà obbligatorio per chi paga l'accesso, del quale cambierà colore ogni giorno per evitare appunto che le persone paghino, no? E poi con lo stesso braccialetto entrino anche il giorno dopo. Da segnalare che questa spiaggia era già, insomma, c'erano già su questa spiaggia le regole piuttosto rigide. Per stendersi in riva ci vuole una stuoia che, secondo i biologi, non danneggia la spiaggia. Fumare è tassativamente vietato, i cani non possono entrare, ai bagnanti non è consentito l'uso di saponi di ogni genere e prima di andare via dal mare è necessario lavarsi i piedi. Per preservare l'ambiente, dicono da Stintino, appunto, bisogna fare anche questo. Con questa cifra, ogni persona, dice il sindaco, darà il suo contributo alle spese che dobbiamo sostenere per mantenere in buone condizioni la spiaggia. Siamo a Carpi, adesso ci spostiamo a Carpi, dove ancora una volta dobbiamo registrare la follia di alcuni ragazzini, insomma, che ha a che fare con il tema dell'attraversamento dei binari, o meglio dell'attraversamento dei binari, della sfida con la sorte, della sfida con un treno che arriva. Siamo a pagina 12 del Quotidiano Nazionale, in un pezzo di Valentina Reggiani e Maria Silvia Cabri, nel quale si parla del senso di onnipotenza e di spregiudicatezza che alimenta gesti di questo genere. E qual è la storia? Siamo nel tratto ferroviario di Via Lama di Quartirolo. Tre ragazzini in azione, tre quasi bambini, studenti di 13 e 14 anni, che dopo aver abbandonato le biciclette e scavalcato le recinzioni nel tratto ferroviario, rotolano sul terrapieno e scattano selfie e video sulle rotaie in attesa del convoglio. Uno dei bambini appoggia un sasso sulle rotaie mentre gli altri lo riprendono, con la triste speranza di far deragliare il treno. Tra risate e beffe, il trio scaglia pietre contro il treno. Vai, dai, stai lì che adesso arriva il treno, dai! E ancora, abbiamo messo i sassi qua, poi prendi la scossa, dai, lancia un altro, hai visto? L'ho preso! Il video continua in stile telecronaca con l'adrenalina della presa in diretta, rivolgendosi a un pubblico di potenziali ascoltatori. Raga, alla fine siamo arrivati sui binari. Un automobilista se ne accorge, allerta i carabinieri. Una madre fortunatamente riconosce tra le foto, trova tra le foto del figlio e tra i video del figlio sul cellulare le scemenze fatte e avverte i carabinieri. Guarda che c'era mio figlio insieme a questi altri due. E ovviamente sono stati denunciati. Veniamo a chiudere questa prima parte ad un tema sul quale, e restiamo sul Quotidiano Nazionale, perché è un tema che riguarda tutti, perché riguarda i cantieri e la lentezza dei nostri cantieri. Prende spunto il Quotidiano Nazionale a pagina 7 da Genova, dal fatto che la costruzione del ponte sta effettivamente andando veloce, la costruzione del nuovo ponte, quello che sostituisce ovviamente il ponte Morandi. E però ne prende spunto per raccontare che per un nuovo ponte che viene costruito ci sono decine di opere che sono completamente ferme. La beffa dei cantieri infiniti, 15 anni per un'opera, scrive Antonio Troise, appunto a pagina 7 del Quotidiano Nazionale. Senza il decreto Genova, dice, saremmo ancora alla fase della progettazione preliminare, che per le opere con un valore simile a quella del Ponte Morandi, circa 250 milioni di euro, varia da 2 a 6 anni. È un'eternità ed è bellissima, si fa per dire ovviamente, la tabella che accompagna questo pezzo, perché è una tabella sulle opere, insomma quelle un po' più in ritardo, oppure quelle un po' più famose che sono in ritardo. Per esempio, la città dello sport a Tor Vergata, siamo a Roma, inizio lavori nel 2005, siamo al 16% del completamento. La ferrovia, no, il Mose, inizio 2003, completamento 93%, e qua quasi ci siamo, per un'opera da 5,7 miliardi, ma la ferrovia Ferrandina-Matera, iniziata nel 1986 e siamo al 18% del completamento. La diga di Givigliano in Calabria, inizio lavori 1982 e siamo al 16%. Pausa, va. Mattino. Ed eccoci di nuovo, le 7:38 minuti. Paolo Mieli, buongiorno direttore, ciao. Buongiorno, eccomi qui. Eccoci qua. Oddio, che audio orrendo, eh. Ogni mattina abbiamo qualche problema in questo periodo. Vediamo se riusciamo a adesso lo miglioro. Sì, speriamo davvero. Allora, io vorrei iniziare con te dalla questione di Intesa San Paolo, dell'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo su UBI, andando direttamente sul Sole 24 Ore, che ovviamente gli dedica ampio spazio con tutti i risvolti che ci possono essere, dal fatto che oggi la palla passa appunto ai soci di UBI, come racconta Carlo Festa a pagina 2, l'apertura, i fondi aprono, patti al bivio, scrive Carlo Festa, e poi il fatto che tutto questo sembra poter riaprire, no? un nuovo fronte, no? Dal lato delle banche, non solamente per quanto riguarda Intesa San Paolo e UBI, ma anche le altre. Certo, il piano Intesa UBI per creare un gigante, sto leggendo anche io da Sole 24 Ore, ma questo è un articolo di Luca Davi. è un gigante da 1.100 miliardi. Con il Signore delle Nozze nascerà la settima banca UE. Alcuni dicono la terza, io mi fido di Luca Davi, è la settima banca, ma la settima è enorme. In borsa corre la Preda, cioè UBI, più 23%, e anche Cadesas, cioè Intesa, più 2%. Messina ha detto che il marchio UBI scomparirà, però creiamo un nuovo campione. La curiosità dice, insomma, i giornali raccontano che l'amministratore delegato di UBI, Victor Massià, è stato contattato lunedì sera molto tardi. Gliel'ha detto Messina, lui è rimasto sorpreso anche perché era a Londra a fare un road show per la sua banca, però per il momento non c'è guerra fra le due banche, forse si riesce a portare in porto così con tranquillità. Che cosa colpisce? Colpisce sì. A che l'uscita di scena del grande di Intesa, Giovanni Bazzoli, che ha raccontato, tutti i giornali dedicano ampi articoli, il fatto che Bazzoli ieri mattina ha detto, ma a me me l'hanno detto ieri sera tardi, si è mostrato sorpreso ma non insoddisfatto. Quindi il protagonista per 20 anni delle storie di Banca Intesa esce di scena, insomma racconta di essere stato informato all'ultimo momento, sì. E poi invece entra un nuovo protagonista che forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono, perché è stato citato da Messina ieri, che si chiama Francesco Canzonieri. Teniamo a mente questo nome, è un ex di Goldman Sachs, conosce Messina dal 2002, lavora per Mediobanca ed è stato l'uomo al quale Alberto Nagel ha affidato la messa a punto di questa missione, che è andata molto molto bene, per cui abituiamoci a vedere. Tra l'altro Canzonieri aveva lavorato anche nello staff di Corrado Passera 10 anni fa, quando allora lui era amministratore delegato di Banca Intesa. Impariamo a conoscere questo nome, Francesco Canzonieri, perché per decisione lo aveva portato in Mediobanca, sì, Stefano Marsaglia, per decisione unanime, credo, ieri è stato annunciato come il grande regista occulto di questa operazione. Di tutta il giornale La Saluta in prima pagina, in modo più grande di tutti gli altri, Super Banca Italia, svolta nel credito, e curioso, nell'editoriale Nicola Porro, senza specificare, dice che potrà essere un punto di riferimento anche politico. Io non ho capito bene in che senso, però certo la nascita è una notizia molto positiva, da tempo in Italia non c'erano notizie come questa, la nascita di una banca davvero grande, di livello europeo, settimo, terzo posto che sia, è una notizia che può influenzare la politica. Sì, sicuramente. Tra l'altro il giornale parla anche di una sorta, no, di una scossa che può dare al paese più del governo. Governo che appare al momento piuttosto bloccato, no? In mezzo, preso in tutte le vicende e gli scontri della maggioranza. Sì, lì adesso un caos, passiamo dalle note allegre alle note meste. Ieri si sono messi, hanno trovato un mezzo accordo sulle intercettazioni, ma fra tavoli e annunci è davvero una situazione caotica come non se ne vedeva da tempo. Sì, tra l'altro Paolo, con questo delirio di parlamentari che si spostano da una parte all'altra, dei quali leggiamo oggi sui giornali, no? Una senatrice. La grande sorpresa ieri è stata appunto che due parlamentari, mentre Renzi sembrava così in rotta, due parlamentari, uno dal PD e una dall'EU, la senatrice che tu citavi è dall'EU, si sono spostati verso il gruppo di Renzi. Questo vuol dire che così messo male non è Renzi, anche se Renzi resta protagonista di questa fase politica. Oggi ben due giornali, il Fatto Quotidiano e La Verità, dedicano tutte le prime pagine ai guai giudiziari di Renzi e dei suoi familiari. Consip, sto parlando della Verità, altro che complotto contro Renzi, il GIP non hanno indagato sul grande capo, il grande capo Renzi, Il rottamatore parlava di intrighi e sui danni, ma il giudice alza il tiro e chiede di iscrivere l'ex alleato Verdini, le gestioni indagate. Nelle carte aspre critica agli inquirenti che precedenti, rilevi inadeguati su alcune telefonate partite da Palazzo Chigi. Ritenuto centrale il ruolo di Babbo Renzi, che resta indagato per il traffico di influenze esercitato in due mediazioni. E poi non è solo Babbo Renzi, insomma, ce n'è sette pagine, ho contato sul Foglio, sul Fatto Quotidiano. E La Verità, insomma. No, e oltre a Rostan, appunto, e Cerno, e la campagna acquisti di Italia Viva e appunto le questioni giudiziarie, c'è l'altro aspetto sul quale adesso arriviamo tra un attimo, perché le contromosse di Conte. Oggi la Repubblica apre parlando dell'arrivo di alcuni, vogliamo chiamarli responsabili, non si sa esattamente, però persone che vogliono dialogare col governo. Traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Mattino. Operazione Salva Conte, la chiama la Repubblica, un gruppo di senatori lascia Forza Italia, l'ex ministro Romani che dice saremo interlocutori dell'esecutivo. Interlocutori, Paolo, che cosa vuol dire? Beh, è una frase importantissima, perché è la prima volta che un uomo importantissimo dello staff berlusconiano di Forza Italia esce allo scoperto. E interlocutori vuol dire io ho, la traduco alla maniera mia, quindi responsabilità di Paolo Mieli, io ho organizzato un gruppo di senatori che nel caso in cui i renziani votassero contro voterebbero a favore del governo, e questo uomo si chiama Paolo Romani. Poi le formule sono soft, fai bene a tu a sottolineare che sono soft, però significa che Berlusconi ha messo a disposizione del governo dei senatori supplenti. Però attenzione, perché questo avvicinamento a Renzi, cioè Paolo, giusto, aiutami a capire, secondo te l'operazione partirebbe direttamente da Silvio Berlusconi? Secondo me certo, escludo che dentro Forza Italia Silvio Berlusconi non vuole che questa legislatura si interrompa. Sa benissimo che se Renzi ottenesse la testa di Conte ci sarebbe un vuoto di potere e che si potrebbe precipitare a elezioni anticipate. Tra l'altro ho notato che il PD ha chiesto che la legge elettorale nuova da fare per adattare il sistema in caso che passi il referendum sul taglio dei parlamentari si faccia prima del taglio dei parlamentari, in modo che si sia pronti o quasi pronti a votare anche a giugno, a luglio. Sì. E questa cosa allarma molto Berlusconi, che così finge di non vedere, che vedere, non si è accorto, era così distratto, non si è accorto che un gruppo di suoi senatori organizzati da Paolo Romani, che come tu hai sottolineato maliziosamente, tu sei maligno. No, io per carità, io mai. Sei un tipo malizioso. Vabbè, come tu hai sottolineato maliziosamente, voglio che gli ascoltatori sappiano della cattiveria di Spezia, la malizia di Spezia. Sì, sì, esatto, giusto. Che questi qui si mettono a disposizione del governo Conte. Buffa la storia di una legislatura che era nata con i 5 Stelle che non volevano neanche incontrare Silvio Berlusconi, e alla fine chi li salverà forse sarà proprio Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, niente male, è vero. Tutti a guardare Vespa stasera, perché Renzi ha annunciato che da Vespa farà capire quello che pensa. Siccome tocca a Renzi dare la spallata, vedremo se stasera la darà. Sì. Io dovessi scommettere, penso che non la darà, perché Renzi si diverte così, va in Pakistan, Cina, e li tiene sulla corda, questi disgraziati ballano e quindi il gioco dura finché non dai mai la spallata definitiva. Se dai la spallata definitiva tutto finisce. Allora, ti voglio portare su, ma ne abbiamo già parlato prima, però lo voglio riproporre agli ascoltatori perché è stato un bel momento quello di ieri all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università La Sapienza di Roma, dove Liliana Segre ha ricevuto un dottorato di ricerca honoris causa in storia dell'Europa, la senatrice a vita Liliana Segre. C'erano state delle polemiche per la presenza e per il fatto che avrebbe dovuto parlare un ragazzo, si chiama Valerio Cerracchio, 24 anni, del movimento giovanile di destra Generazione Popolare. Gli studenti di sinistra avevano attaccato, avevano detto no, non può, è un fascista, non deve intervenire in questa manifestazione, e poi la vicenda si chiude magicamente, meravigliosamente, con Liliana Segre in questo modo. Senatrice, la vuole salutare Valerio? Sì, certo, ciao Valerio, ciao. Mio nipote. Grazie. Ti posso dare un bacio? O sono troppo vecchia? No, mi fa piacere. Ciao. Grazie mille. Oh, ma che bella chiusura questa vicenda, Paolo? Un piccolo gesto, ma molto significativo, perché le polemiche su questo Valerio Cerracchio, che studia ingegneria e fa parte, come tu hai ricordato, di questo movimento studentesco di destra Generazione Popolare, è stato feroci, perché si diceva, ma come, un fascista. Oggi Cerracchio, evidentemente soddisfatto del gesto della Segre, perché questo bacio alcuni giornali lo salutano in prima come una cosa di tenerezza e di conciliazione, racconta Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera che lui non è mai stato fascista, dice: per il fatto di essere di destra, così mi hanno qualificato i gruppi di sinistra, mi fa piacere che Liliana Segre abbia riconosciuto che anch'io ho dignità di parola. In un clima molto infuocato, questo gesto è un gesto significativo. Passerà nel niente, perché in Italia è chiaro che in questa stagione c'è grande voglia di menare le mani, però noi qui di Radio 24 ce lo ricorderemo e lo citeremo altre volte. Sì, e lo sottolineeremo. A chiudere abbiamo ancora un minuto, ti porto su pagina 17 della Repubblica con un pezzo di Antonio Fraschilla e Salvo Palazzolo che racconta questa storia incredibile di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani, ucciso nell'attentato a Falcone. Ebbene, lei era la donna che aveva detto mafiosi inginocchiatevi al funerale del marito. Ebbene, è stata tradita dal fratello, che è stato arrestato e a quanto sostengono i magistrati era di fatto al servizio dei boss. Poi vedremo nei giorni prossimi la storia di questi boss, perché sono boss importantissimi, non era un piccolo manovale, ma sono i boss che organizzavano il depistaggio su Via D'Amelio, insomma tutta una storia complicata di cui non ho tempo di parlare. Ed è la grande sorpresa di oggi, perché tutti coloro che hanno visto un film, compreso Il Traditore, il film dedicato al tradimento di Buscetta che portò al tradimento, insomma l'ottima collaborazione di Buscetta che portò all'arresto dei boss, hanno visto l'immagine di questa Rosaria Schifani, Rosaria Costa, questo è il suo, che piangeva e che diceva mafiosi inginocchiatevi, e beh, suo fratello che ha un ruolo così importante, visto che parliamo di questo, però fammi citare anche che il capitano ultimo, cioè l'uomo che arrestò Totò Riina, è stato promosso assessore in Calabria, ci sono tutte le foto, ed è famoso perché è uno che va sempre in giro col viso coperto, sì. Fa l'allevatore di falchi, è stato protagonista anche di vicende giudiziarie, però Iole Santelli l'ha scelto come assessore, una notizia non di poco momento. Grazie Paolo Mieli, grazie direttore, ci ritroviamo ovviamente venerdì come sempre GR24 e subito dopo con Maria Latella parleremo di siccità e poi la politica con il ministro Amendola. Coronavirus, presidente Mielis.